Sura 109. Al-Kafirun. I miscredenti. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Di: O miscredenti, io non adoro quel che voi adorate, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. Io non sono adoratore di quel che voi avete adorato, e voi non siete adoratori di quel che io adoro. A voi la vostra religione, a me la mia.